L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Decima puntata. Astolfo contro Caligorante e Orrilo. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Dall'India, dove era stato prigioniero Dalcina, Astolfo, liberato dall'Ogistilla, fa ritorno in Occidente. Il suo cavallo rabicano è così leggero che non lascia orma né sulla sabbia né sulla neve, e quando galoppa su di un prato non spezza neppure un filo d'erba. È un cavallo senza peso, nato dall'incontro d'una fiamma a forma di cavalla ed un colpo di vento. Sotto i suoi zoccoli impalpabili scorre una carta geografica sontuosamente istoriata di figure e di cartigli, dove le meraviglie dei viaggi di Marco Polo si sommano alle profezie delle scoperte cinquecentesche, le notizie tramandate dagli autori classici, agli echi delle spedizioni di Cortés. Sotto lo sguardo d'Astolfo, per l'ultima volta il mondo tenta di dispiegare sulla stessa mappa tutte le dimensioni dell'immaginazione umana. Ogni nome di luogo evoca spettacoli della natura, monumenti, costumi dei popoli, ma anche dei della mitologia classica e orchi e fate delle fiabe. L'Egitto è quello d'Erodoto e della Bibbia, e insieme quello delle cronache dei pellegrini che hanno visto le piramidi di Menfi e al Cairo il palazzo del sultano abitato da 15.000 mamelucchi. Ma vi si trova pure la rete d'acciaio fabbricata da Vulcano per catturare Venere adultera insieme a Marte, rete che dopo essere stata custodita nel tempio di Anubi a Canopo, ora è in mano d'un gigante che se ne serve per catturare i viandanti e divorarli. Le carovane s'affidano al deserto ignare della rete nascosta nella sabbia e tutto a un tratto ecco uomini, donzelle, cavalli e cammelli sollevati in aria tra maglie d'acciaio, mentre risuona la risata del gigante. Il castello di Caligorante, così si chiama l'orco, è sulle rive del Nilo, tutto pavesato d'ossa umane, con pelli scuoiate stese ad ornamento sui merli e i davanzali. Teschi disseccati sono appesi come trofei alle porte, cui fanno da fastidio braccia e gambe mozze. Là, Caligorante trascina la rete colma di malcapitati che lui spolpa uno per uno come uccelletti, sputa le ossa al deserto e per ultimo succhia le cervella con un piccolo schiocco delle labbra. Ecco avvicinarsi un cavaliere. Caligorante s'apposta in un canneto. Tra poco gli zoccoli del cavallo calpesteranno la rete d'acciaio sepolta nella sabbia e scatterà la trappola. Ma il cavaliere è Astolfo. E il galoppo di Rabicano è così leggero che sfiora il suolo come fosse una libellula. Caligorante esce dal canneto per rincorrerlo. In quel momento Astolfo si ricorda d'un regalo che gli ha fatto l'Ogistilla. Un corno magico, dal suono così tremendo che chiunque l'ode impazzisce dal terrore. È il momento di provarlo. Astolfo dà fiato al corno. Il gigante fugge in preda al panico ed è così frastornato che incappa nella sua stessa trappola. Ha un bel dibattersi, la rete d'acciaio gli si serra addosso e lo lega come un salame. Astolfo potrà portarselo dietro al guinzaglio e servirsene come facchino. Così continua il suo viaggio lungo il Nilo. Passò per più di un campo e più di un bosco, per più di un monte e per più di una valle, ove ebbe spesso all'aer chiaro e al fosco i ladroni ora innanzi, ora alle spalle. Vide leoni e draghi pien di tosco ed altre fere attraversarsi il calle, ma non si tosto avea la bocca al corno che spaventati gli fuggian d'intorno. Vien per la rabbia, che detta felice, ricca di mirra ed odorato incenso, che per suo albergo l'unica fenice eletto sa di tutto il mondo immenso, finché l'onda trovò, vendicatrice già d'Israel, che per divin consenso faraone sommerse e tutti i suoi. E poi venne alla terra degli eroi. Lungo il fiume Traiano egli cavalca su quel destrier ch'al mondo è senza pare, che tanto leggermente corre e valca che nell'arena l'orma non appare. L'erba non pur la neve calca, co piedi asciutti andar potria sul mare, e sì si stende al corso, e sì s'affretta, che passa e vento, e folgore, e saetta. Questo è il destrier che fu dell'Argalia, che di fiamma e di vento era concetto, e senza fieno e biada si nutria dell'aria pura, e Rabican fu detto. Venne seguendo il duca la sua via, dove dà il nido a quel fiume ricetto, e prima che giungesse in sulla foce, vide un legno venire a sé veloce. Naviga in sulla poppa uno eremita con bianca barba a mezzo il petto lunga, che sopra il legno il paladino invita, e figliuol mio gli grida dalla lunga, se non te in odio la tua propria vita, se non brami che morte oggi ti giunga, venir ti piaccia su quest'altra arena, ch'a morir quella via dritto ti mena. Tu non andrai più che 6 miglia in ante, che troverai la sanguinosa stanza dove s'alberga un orribil gigante che d'8 piedi ogni statura avanza. Non abbia cavalier né viandante di partirsi da lui vivo speranza. Ch'altri il crudel ne scanna, altri ne scuoia, molti ne squarta, e vivo alcun ne ingoia. Piacer fra tanta crudeltà si prende d'una rete che gli ha molto ben fatta. Poco lontana al tetto suo la tende, e nella trita polve, in modo appiatta, che chi prima non sa non la comprende, tanto è sottil, tanto egli ben l'adatta, e con tai gridi i peregrin minaccia, che spaventati dentro ve li caccia, e con gran risa avviluppati in quella se li strascina sotto il suo coperto, né cavalier riguarda, né donzella, ossia di grande, ossia di picciol merto, e mangiata la carne, e le cervella succhiate, il sangue, dall'ossa al deserto, e dell'umane pelli intorno intorno fa il suo palazzo orribilmente adorno. Prendi quest'altra via, prendila, figlio, che fino al mar ti fia tutta sicura. Io ti ringrazio, padre, del consiglio, rispose il cavalier senza paura, ma non istimo per l'onor periglio, di ch'assai più che della vita ho cura. Per far ch'io passi in van tu parli meco, anzi vo al dritto a ritrovar lo speco. Fuggendo posso con disnor salvarmi, ma tal salute ho più che morte a schivo. Se io vivo, al peggio che potrà incontrarmi, fra molti resterò di vita privo. Ma quando Dio così mi drizzi l'armi che colui morto ed io rimanga vivo, sicura a 1000 renderò la via, sì che l'util maggior che il danno fia. Metto all'incontro la morte d'un solo alla salute di gente infinita. Vattene in pace, rispose, figliuolo, Dio mandi in difensione della tua vita l'arcangelo Michel dal sommo polo, e benedillo il semplice eremita. Astolfo lungo il Nil tenne la strada, sperando più nel suon che nella spada. Giace tra l'alto fiume e la palude picciol sentier nell'arenosa riva, la solitaria casa lo richiude d'umanitade e di commercio priva. Son fisse intorno teste e membra nude dell'infelice gente che v'arriva. Non v'è finestra, non v'è merlo alcuno, onde penderne almen non si veggia uno. Qual nelle alpine ville o ne castelli suol cacciator che gran perigli ha scorsi sulle porte attaccar l'irsute pelli, l'orride zampe e i grossi capi d'orsi, tal dimostrava il fier gigante quelli che di maggior virtù gli erano occorsi. D'altri infiniti sparse appaion l'ossa, ed è di sangue uman piena ogni fossa. Stassi Caligorante in sulla porta, che così ha nome il dispietato mostro, corna la sua magion di gente morta, come alcun suol de panni d'oro ed ostro. Costui per gaudio appena si comporta come il duca lontan se gli è di mostro, che eran 2 mesi, e il terzo ne venia, che non fu cavalier per quella via. Per la palude, che era scura e folta di verdi canne, in gran fretta ne viene, che disegnato avea correre in volta e uscire al paladin dietro alle schene, che nella rete che tenea sepolta sotto la polve di cacciarlo a spene, come aveva fatto gli altri peregrini che qui vi tratto avean lor rei destini. Come venire Il paladin lo vede, ferma il destrier, non senza gran sospetto che vada in quelli lacci a dar del piede, di che il buon vecchiarelli aveva predetto. Quivi il soccorso del suo corno chiede, e quel sonando fa l'usato effetto. Nel cor fere il gigante che l'ascolta di tal timor, ch'a dietro i passi volta. Astolfo suona e tutta volta bada che gli par sempre che la rete scocchi. Fugge il fellon, né vede ove si vada, che come il core aveva perduti gli occhi. Tanta è la tema che non sa far strada, che nelle proprie agguati non trabocchi. Va nella rete, e quella si riserra, tutto l'annoda e lo distende in terra. Astolfo, ch'andar giù vede il gran peso, già sicuro per sé, va a correre in fretta, e con la spada in man, d'arcion disceso, va per far di mill'anime vendetta. Poi gli par che succide un che sia preso, viltà più che virtù ne sarà detta, che legate le braccia, i piedi e il collo gli vede sì, che non può dare un crollo. Avea la rete già fatta Vulcano di sottil fil d'acciar, ma con tal arte che sarebbe stata ogni fatica in vano per ismagliarne la più debole parte, ed era quella che già piedi e mano avea legate a Venere ed a Marte, la fe il geloso, e non ad altro effetto che per pigliarli insieme ambi nel letto. Mercurio al fabbro poi la rete invola, che Cloride pigliar con essa vuole, Cloride bella, che per l'aria vola dietro all'aurora, all'apparir del sole, e dal raccolto lembo della stola, gigli spargendo va rose e viole. Mercurio tanto questa ninfa attese, che con la rete in aria un dì la prese. Dove entra in mare il gran fiume Etiopo, par che la dea presa volando fosse. Poi nel tempio Danubide a Canopo la rete molti secoli serbosse. Caligorante 3000 anni dopo, di là dove era sacra, la rimosse. Se ne portò la rete il ladrone empio e tarse la cittade e rubò il tempio. Quivi adattolla in modo in sull'arena che tutti quei che avean da lui la caccia vi davan dentro e te la tocca appena. Che lor legava e collo e piedi e braccia. Di questa levò Astolfo una catena e le man dietro a quel fellon allaccia. Le braccia, il petto, in guisa gli ne fascia che non può sciorsi, indi levarlo lascia dagli altri nodi avendo il sciolto prima, che era tornato uman più che donzella. Di trarlo seco e dimostrarlo stima per ville, per cittadi e per castella. Vuol la rete anco aver, di che né lima né martel fece mai cosa più bella. Ne fa somier colui che alla catena con pompa trionfal dietro si mena. L'elmo e lo scudo anche a portargli diede come a valletto e seguitò il cammino. Di gaudio empiendo ovunque metta il piede chir possa ormai sicuro il peregrino. Astolfo se ne va tanto che vede che ai sepolcri di Menfi è già vicino, Menfi per le piramidi famoso. Vede all'incontro il Cairo populoso. Tutto il popol correndo si traea per vedere il gigante smisurato. Com'è possibile, l'un l'altro dicea, che quel piccolo il grande abbia legato? Astolfo appena innanzi andar potea, tanto la calca il preme da ogni lato, e come cavalier d'alto valore ognun l'ammira e gli fa grande onore. Sul delta del Nilo c'è una torre circondata da coccodrilli. V'abita il brigante Orrilo. La particolarità di Orrilo è che non può essere vinto in duello, perché se gli si taglia un braccio, lui sghignazzando raccatta il braccio e se lo riappiccica. Se gli si taglia un piede, se lo rimette come se avesse perso una scarpa. E se gli si fa volare via un'orecchia, la prende al volo come fosse una farfalla e la riattacca al suo posto. A tagliargli la testa e a buttargliela nel Nilo, lui si tuffava e nuotando sott'acqua la ripescava sul fondo. Due ragazzi, fratelli gemelli, Grifone e Aquilante, stavano combattendo con Orrilo da chissà quanto tempo. L'avevano già smembrato e fatto a pezzi molte volte e ogni volta le membra di Orrilo tornavano a ricongiungersi come gocce d'argento vivo nel mastello d'un alchimista. Questi due gemelli erano figli d'un paladino di Carlo Magno, Oliviero, ed erano stati in tenera età rapiti da due fate, una tutta bianca e l'altra tutta nera. Per impedire che raggiungessero i campi di battaglia, le fate li avevano mandati a duellare col brigante Orrilo, sicure che ne avrebbero avuto per un bel pezzo. Astolfo, oltre al corno magico, aveva avuto in dono un libro di incantesimi, molto pratico da consultare per via d'un indice in ordine alfabetico. Sfoglia il libro. M-N-O, orca, orzaiolo, Orrilo! Ecco, muore se gli si strappa un capello che ha in testa. Una parola. Orrilo aveva una capigliatura fitta, che si estendeva dalle sopracciglia alla collottola. Astolfo, duellando con lui, per prima cosa cerca di staccargli la testa dal busto. Per Orrilo anche questo era uno scherzo, però a raccogliere la testa ci metteva un po' più di tempo, dato che doveva andarla a cercare nella polvere a tentoni, non avendo più occhi per vedere. Astolfo è più svelto di lui. Raccatta la testa sanguinante e galoppa via, reggendola per la chioma. Orrilo tasta per terra alla cieca, s'accorge d'essere stato giocato, rimonta a cavallo e si dà all'inseguimento d'Astolfo. Fa per gridare, aspetta, non vale, ma il grido gli rimane in petto, perché non ha più bocca per cacciarlo fuori. Astolfo, giunto in un posto tranquillo in riva al Nilo, si siede con la testa mozza sulle ginocchia e comincia a spiluccare i capelli come sfogliasse una margherita. Ci vuol altro con quella chioma così lunga, folta, unta e forforosa. Allora Astolfo sfodera la sua spada affilata come un rasoio e, tenendo la testa ferma per il naso, la rade a zero, anzi la scortica. Insieme a tutti gli altri, anche il capello fatale doveva cadere troncato dalla lama. Difatti, ecco che la testa si fa bianca come uno straccio, torce gli occhi, spalanca le mascelle e resta secca. Orrilo, senza testa, stava sopraggiungendo a cavallo. Ebbe uno scossone, rabbrividì, ruzzolò di sella a braccia aperte. Non era grande il Cairo così allora, come se ne ragiona a nostra etade, che il popolo capir che vi dimora non può 18.000 gran contrade, e che le case hanno 3 palchi e ancora ne dormono infiniti in sulle strade, e che il soldano v'abita un castello mirabil di grandezza e ricco e bello, e che 15.000 suoi vassalli, che sono cristiani rinnegati tutti, con mogli, con famiglie e con cavalli, ha sotto un tetto sol quivi ridutti. Astolfo veder vuole ove s'avalli e quanto il Nilo entri nei salsi flutti a Damiata, ch'avea quivi inteso qualunque passa restar morto o preso. Però chi in ripa al Nilo, in sulla foce, si ripara un ladron dentro una torre che paesani ai peregrini nuoce, e fino al Cairo ognun rubando scorre. Non gli può alcun resistere, e t'ha voce che l'uomo gli cerca in van la vita torre, 100.000 ferite gli ha già avuto, né ucciderlo però mai s'è potuto. Per vedere se può far rompere il filo alla parca di lui, sì che non viva, Astolfo viene a ritrovare Orrilo, così avea nome, e a Damiata arriva, ed indi passa ove entra in mare il Nilo, e vede la gran torre in sulla riva dove s'alberga l'anima incantata che d'un folletto nacque e d'una fata. Quivi ritrova che crudel battaglia era tra Orrilo e due guerrieri accesa. Orrilo è solo, e sì quei due travaglia che a gran fatica gli può far difesa, e quanto in arme l'uno e l'altro vaglia, tutto il mondo la fama palesa. Questi erano i due figli d'Oliviero, Grifone il bianco ed Aquilante il nero. Gli è ver che il negromante venuto era alla battaglia con vantaggio grande, che seco tratto in campo aveva una fera, la qual si trova solo in quelle bande. Vive sul lito e dentro alla rivera, e i corpi umani son le sue vivande. Delle persone misere ed incaute, de viandanti ed infelici naute. La bestia nell'arena appresso al porto, per man dei due fratel, morta giacea. E per questa ad Orril non si fa torto, sa un tempo l'uno e l'altro gli nocea. Più volte l'han smembrato, e non mai morto, né per smembrarlo uccidersi potea, che se tagliato o mano o gamba gli era, la rappiccava, che parea di cera. Or fino ai denti il capo gli divide Grifone, ora Aquilante fino al petto, egli dei colpi lor sempre si ride, sa dire a essi che non hanno effetto. Chi mai d'alto cader l'argento vide che gli alchimisti hanno mercurio detto e spargere e raccor tutti i suoi membri, sentendo di costui se ne rimembri. Se gli spiccano il capo, Orrilo scende, ne cessa brancolar finché lo trovi, e torpe il crine, e torpe il naso il prende, lo salda al collo e non so con che chiovi. Piglia il talor grifone, il braccio stende nel fiume il getta e non par canco Giovi, che nuota orrilo al fondo come un pesce e col suo capo salvo alla ripa esce. Due belle donne, onestamente ornate, l'una vestita a bianco e l'altra a nero, che della pugna causa erano state, stavano a riguardar l'assalto fiero. Queste erano quelle due benigne fate che avean nutriti i figli d'Oliviero, poiché li trasson teneri citelli dai curvi artigli di due grandi augelli che rapiti gli avevano a Gismonda e portati lontan dal suo paese. Ma non bisogna in ciò che io mi diffonda, che a tutto il mondo è l'istoria palese. Benché l'autor nel padre si confonda, cum per un altro, io non so come, prese. Or la battaglia i due giovani fanno che le due donne ambi pregati n'hanno. Era in quel clima già sparito il giorno, all'isole ancora alto di fortuna. L'ombre avean tolto ogni vedere attorno sotto l'incerta e mal compresa luna. Quando alla rocca Orril fece ritorno, poi alla bianca e alla sorella bruna, piacque di differir l'aspra battaglia finché il sol nuovo all'orizzonte saglia. Astolfo, che grifone ed aquilante tall'insegne e più al ferir gagliardo riconosciuto avea gran pezzo in ante, lor non fu altiero a salutar né tardo. Essi, vedendo che quel che il gigante traea legato era il baron dal pardo, che così in corte era quel duca detto, raccolser lui con non minore affetto. Le donne a riposare i cavalieri menaro a un lor palagio indi vicino. Donzelle incontra vennero e scudieri con torchi accesi a mezzo del camino. Diero a chi n'ebbe cura i lor destrieri, trassonsi l'arme e dentro un bel giardino trovar ch'apparecchiata era la cena ad una fonte limpida ed amena. Fan legare il gigante alla verdura con un'altra catena molto grossa ad una quercia di molt'anni dura che non si romperà per una scossa e da 10 sergenti averne cura che la notte di scior non se ne possa ed assalirli e forse far lor danno mentre sicuri e senza guardia stanno. All'abbondante e sontuosa mensa dove il manco piacer fur le vivande del ragionar gran parte si dispensa sopra d'orrilo e del miracol grande che quasi pare un sogno a chi vi pensa cor capo or braccio a terra se gli mande ed egli lo raccolga e lo raggiugna e più feroce ognor torni alla pugna. Astolfo nel suo libro avea già letto quel che agli incanti riparare insegna ch'ad orril non trarrà l'alma del petto fincun crine fatal nel capo tegna. Ma se lo svelle o tronca, fia costretto che suo malgrado fuor l'alma ne vegna. Questo ne dice il libro, ma non come conosca il crine in così folte chiome. Non men della vittoria si godea che se n'avesse Astolfo già la palma, come chi speme in pochi colpi avea a svellere il crine al negromante e l'alma. Però di quella impresa promettea, tor sugli omeri suoi tutta la salma, Orril farà morir quando non spiaccia ai due fratei che egli la pugna faccia. Ma quegli danno volentieri l'impresa, certi che debbia affaticarsi in vano. Era già l'altra aurora in cielo ascesa, quando calò dai muri Orrilo al piano. Tra il duca e lui fu la battaglia accesa, la mazza l'un, l'altro alla spada in mano. Di mille attende Astolfo un colpo trarne, che lo spirito gli sciolga dalla carne. Or cadergli fa il pugno con la mazza, or l'uno or l'altro braccio con la mano, quando taglia attraverso la corazza e quando il va troncando a brano, ma ricogliendo sempre della piazza va le sue membra Orrilo e si fa sano. Se in 100 pezzi ben l'avesse fatto, redintegrarsi il vede Astolfo a un tratto. Al fin di 1000 colpi, un gli ne colse sopra le spalle ai termini del mento, la testa e l'elmo dal capo gli tolse, né fu d'Orrilo a dismontar più lento, la sanguinosa chioma in man s'avvolse e risalse a cavallo in un momento e la portò correndo incontro al Nilo che riaver non la potesse Orrilo. Quel sciocco che del fatto non s'accorse, per la polve cercando iva la testa, ma come intese il corridor via torse portare il capo suo per la foresta, immantinente al suo destrier ricorse, sopra vi sale e di seguir non resta, volea gridar, aspetta, volta, volta, ma gli avea il duca già la bocca tolta. pur che non gli ha tolto anche le calcagna, si riconforta e segue a tutta briglia. Dietro il lascia gran spazio di campagna quel rabican che corre a maraviglia. Astolfo intanto per la cuticagna va dalla nuca fin sopra le ciglia, cercando in fretta se il crine fatale conoscer può corril tiene immortale. Fra tanti e innumerabili capelli, un più dell'altro non si stende o torce. Qual dunque Astolfo sceglierà di quelli che per dar morte al rio ladron raccorce? Meglio è, disse, che tutti io tagli o svelli. Né si trovando aver rasoi né force, ricorse immantinente alla sua spada che taglia sì, che si può dir che rada. E tenendo quel capo per lo naso, dietro e innanzi lo dischioma tutto. Trovò, fra gli altri, quel fatale a caso. Si fece il viso allor pallido e brutto, travolse gli occhi e dimostrò all'occaso per manifesti segni esser condotto. E il busto che seguia, troncato al collo, di sella cadde e diè l'ultimo crollo. Astolfo, ove le donne e i cavalieri lasciato avea, tornò col capo in mano, che tutti avea di morte i segni veri, e mostrò il tronco ove giacea lontano. Non so ben se lo vider volentieri ancor che gli mostrasser viso umano, che la intercetta lor vittoria forse d'invidia ai due germani il petto morse, né che tal fin quella battaglia avesse credo più fosse alle due donne grato. Queste, perché più in lungo si traesse dei due fratelli il doloroso fato che in Francia par che in breve esser dovesse, con loro orrilo avean quivi azzuffato, con speme di tenerli tanto a bada che la trista influenzia se ne vada. Tosto che il castellan di Damiata certificossi che era morto Orrilo, la columba lasciò ch'avea legata sotto l'ala la lettera col filo. Quella andò al Cairo, e tindi fu lasciata un'altra altrove, come qui vi è stilo, sì che in pochissime ore andò l'avviso per tutto Egitto che era Orrilo ucciso. Abbiamo trasmesso la decima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.